Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sapete, da ieri abbiamo cominciato un piccolo percorso, un piccolo cammino all'interno di una festa molto sentita in Calabria, ma direi in tutto il sud, che è la festa della Madonna della Montagna, che si tiene intorno al santuario di Polsi. Giorni di festeggiamenti, giorni di preghiera, ma giorni anche, come abbiamo sentito ieri dal procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, che ha svolto insieme ai suoi colleghi lombardi un'inchiesta che si chiama Il Crimine, giorni in cui, appunto, dicevo, intorno a quel santuario, luogo sacro e santo, ahimè, purtroppo le cosche da sempre, ci ha detto Gratteri, lì si riuniscono con falsi scopi, matrimoni, battesimi o quant'altro per pianificare le strategie della 'ndrangheta. Voi sapete che ne abbiamo parlato in questi anni, ne abbiamo parlato con il signor Bragantini, abbiamo parlato con Don Pino De Masi, ne abbiamo parlato anche con alcuni preti che hanno negato decisamente e anche in toni abbastanza polemici che mai in quell'area si fosse svolta o si sia svolta alcuna attività criminale. Balle sono state descritte da alcuni preti. Allora, noi per parlare del significato di questa festa e soprattutto del messaggio forte che la Chiesa lancia contro la 'ndrangheta, abbiamo chiamato a parlare innanzitutto il vescovo di Locri Gerace, padre Giuseppe Fiorini Morosini. Buongiorno padre. Buongiorno. E Don Pino De Masi, che è vicario generale della diocesi di Oppido Palmi e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, che è già stato nostro ospite diverse volte. Buongiorno Don De Masi. Buongiorno a tutti, buongiorno eccellenza. Allora, padre Giuseppe Fiorini Morosini continua nella linea di continuità del suo predecessore Monsignor Bragantini nella denuncia forte contro la 'ndrangheta. Le chiedo, padre Morosini, in questi anni la vostra voce si è elevata altissima, la sua e di Monsignor Bragantini, ma le chiedo in maniera molto spontanea, a suo giudizio la Chiesa ha fatto tutto ciò che doveva essere fatto per denunciare, come dire, questo mercimonio che intorno a un sacro santuario si è svolto in questi decenni, da sempre, dice Gratteri? Ma guardi, la denuncia è sempre proporzionata ai fatti che succedono, alla chiarezza degli avvenimenti che si susseguono. Io non mi sento di giudicare un vescovo che mi ha preceduto per il modo come ha denunciato, perché penso che ogni vescovo sia incarnato nella realtà che viveva. Ricordo che un mio predecessore, Monsignor Tortora, ai tempi dei sequestri fece delle denunce forti contro la 'ndrangheta, che purtroppo i media del tempo non hanno sottolineato, non hanno preso molto in considerazione. Per cui penso che ognuno si relaziona al momento che vive. Io mi sono trovato in questa situazione nella quale con chiarezza è apparso, certo, il fatto che nella zona del santuario sono avvenuti questi incontri, e ho detto con chiarezza che pensavamo che fossero cose ormai sorpassate, ho detto folklore del passato. Ci dobbiamo ricredere, anche se c'è da fare una precisazione. Prego. Dalle ultime intercettazioni, quelle poi passate attraverso i media nazionali e internazionali, la spartizione del potere o la divisione dei ruoli non è avvenuta a Polsi, è avvenuto durante un matrimonio. Certo, infatti è soltanto a Polsi poi si sono incontrati, certo. Il 2 settembre come data di inizio di questa nuova spartizione. Però quello che è importante è che oggi si è presa coscienza che ancora il santuario è usato e del quale si presenta un'immagine tutt'altro che religiosa. Oggi, prendendo coscienza di questo, si è intervenuti. Il vescovo, a nome della Chiesa diocesana, ha sentito il dovere di intervenire nei toni decisi ma anche accoglienti, perché alcuni si sono meravigliati che io abbia usato l'espressione carissimi fratelli. Penso che un vescovo debba usare toni decisi ma anche di invito alla conversione, perché indubbiamente è la missione che Gesù ci ha affidato. Indubbiamente. Allora, noi tutti ricordiamo ad esempio un vero e proprio anatema che fu lanciato ad Agrigento da Papa Wojtyła diversi anni fa, negli anni 90, contro la mafia. Le chiedo, padre Morosini, lei se la sente di lanciare un anatema oggi, 2 settembre, nel momento in cui c'è il culmine di questa festa della Madonna della Montagna, se la sente di lanciare un vero e proprio anatema contro l'Andrangheta, che è morte, che è civiltà di morte, anzi è inciviltà di morte? Se lei va a leggere i discorsi che ho fatto non quest'anno, ma l'anno scorso, si accorgerà che l'invito è stato pressante a questa gente perché si converta. E Giovanni Paolo II, se ha gridato, non ha gridato diciamo il male contro di loro, ha gridato una esortazione. Certo. Convertitevi, perché dovete rendere conto a Dio. Su questa linea penso che ci ritroviamo tutti gli uomini di Chiesa. Io le ripeto, se lei va a leggere il discorso che ho fatto l'anno scorso proprio a Polsi, si accorgerà che non ho avuto timore di invitare, di gridare le distorsioni tra fede e malaffare. Assolutamente, assolutamente certo sono di questo, perché la sua voce si sta levando alta e lo ha riconosciuto ieri lo stesso Nicola Gratteri. Don Pino De Masi, però le chiedo questo: mi piace molto il discorso di padre Morosini di conversione, è un termine ormai che si sente poco, sembra quasi desueto, no? Ma per quella che è la sua esperienza in una zona difficilissima, poi noi ci conosciamo, io l'ho vista, ho visto all'opera, ho visto con quanto amore lei, diciamo così, affronta le difficoltà quotidiane. Ecco, ma dalla sua esperienza si può parlare di conversione nei confronti di queste persone, o per loro voglio dire mischiare il sacro e il profano, il santino di 'Ndrangheta che brucia con la fede è un tutt'uno, e quindi è, come dire, non dico impossibile parlare loro di conversione, ma molto tosto e molto arduo. Ma intanto io vorrei ringraziare Monsignor Morosini per questo messaggio e per la chiarezza del messaggio, che suggella appunto un dato di fatto, che c'è impossibilità di convivenza tra Lupara e Vangelo. Chi è 'ndranghetista non può dirsi cristiano, e il cristiano, essere cristiano significa vivere da non mafioso. Però ecco, noi come Chiesa siamo chiamati, giustamente diceva Monsignor Morosini, ad annunciare il Vangelo a tutti. La conversione, siamo chiamati ad annunciarli e invitare anche questi uomini alla conversione. Qual è l'esperienza, ecco, che io porto? Io nei miei gruppi ho spesso i figli dei mafiosi, perché in una cittadina, in una parrocchia, ecco, del sud, sappiamo chi siamo e chi non siamo. Certo. E quindi, ecco, nella trasparenza e nella verità io annuncio il Vangelo e invito i ragazzi al cambiamento, ad essere protagonisti del cambiamento. Ecco, può sembrare una domanda stupida, sì, magari, però le domande, come dire, semplici, sono quelle che poi la gente segue e capisce, certo, di più. Ma ecco, è difficile, è impossibile, è probabile, è inverosibile, ci dica lei, convertire, allora, il figlio di un mafioso? Ecco, io il figlio del mafioso, nella verità, devo invitarlo al cambiamento. Certo. Qual è l'esperienza? Ecco, l'esperienza in linea di massima è che i ragazzi ti seguono, però poi a un certo punto la famiglia li assorbe. Ecco, questo è il dato triste della situazione. Certo. Il dato bello è che nella mia esperienza io ho avuto ragazzi che di fatto hanno scelto di cambiare stile di vita. E questo è meraviglioso. L'altro giorno un ragazzo, ecco, mi diceva, ecco, non vedo l'ora di andarmene all'università, perché questo cognome incomincia a pesarmi. E questo è effettivamente, ecco, un bel, allora, messaggio di speranza. Ecco, perché credo allora che come Chiesa noi siamo chiamati, diceva Monsignor Don Torino Bella, ad annunciare, denunciare e rinunciare, ma siamo chiamati anche a dire ai mafiosi che devono convertirsi. e quindi fare in modo che i loro figli, ecco, non scelgano la strada dei loro padri. Bene, io direi che con questo messaggio di speranza possiamo chiudere questa seconda puntata dedicata a questo tema, a questi abusi che purtroppo in questi giorni uomini malavitosi, criminali, indranghetisti portano intorno al santuario di Polsi. Grazie alle parole del vescovo di Locri Gerace, padre Giuseppe Fiorini Morosini, grazie a Don Pino De Masi. Ringrazio in regia Peter Bescapè, in studio Valeria Coffaro e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.